Sono moltissime le ragioni che creano un disaccordo tra persone, ma venne, è una che, a mio avviso, non è stata presa in considerazione quanto vorrebbe. Prima di tutto bisogna prendere sul serio l'affermazione della parola di Dio, secondo la quale i rapporti umani sono difficili non a causa di mancanza di progresso o di benessere, ma perché tutti abbiamo delle inclinazioni sbagliate, che Dio chiama peccati. Infatti, prima di morire, 2000 anni fa, già l'Apostolo Paolo così scrisse a Timoteo: «Suo figlio spirituale, or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato». A questa lunga lista di ragioni che causano le diverse difficoltà nei rapporti umani in questo secolo, io aggiungerei un altro motivo, che potrebbe trovarsi anche alla base di ogni relazione perversa: l'intenzione di colpire, di voler abbattere, di voler ferire, trafiggere, di volere, insomma, che la persona si senta umiliata, mortificata. Se questa causa scatenante le difficoltà nei rapporti umani non è stata mostrata abbastanza, molto probabilmente è perché il desiderio di colpire è tanto comune e tanto praticato che ormai non ci facciamo più caso. Colpire è la tipica normale arma che si usa quando si odia qualcuno e ci si vuole fare vendetta, ma rimanendo indenni davanti alla legge. E il modo di non subire danni alla reputazione quando si dice una parola cortese, ma il cui scopo è quello di umiliare. Non riesco a dimenticare l'episodio di quando mi ero recato con 4 giovani usciti dalla droga grazie alla fede in Cristo, presso un'assemblea dove i ragazzi avrebbero testimoniato di ciò che era loro successo. Accortasi di ciò che stavano dicendo questi giovani, tutta l'assemblea iniziò ad applaudire, al punto che i giovani dovettero smettere di parlare. Lo scopo dei presenti era di volerli farli smettere, di volerli colpire. E, dato che non era molto onorevole dire espressamente di tacere, il pubblico usò la tecnica subdola e ipocrita dell'applauso, in modo da rimanere innocente agli occhi del prossimo. La tecnica di colpire è molto più comune nelle conversazioni. Si sa che parlare è un'arte, nel senso che non è possibile dire parole sconsideratamente, senza tener presente anche con chi si parla. Se comunico con un amico, il mio parlare può essere più libero rispetto ad un forestiero o ad un'autorità civile e anche il mio tono sarà adeguato alle circostanze. Un'arte questa che scaturisce, oltre che dalla convivenza civile, anche da carità cristiana. Così come è possibile fare del bene con un linguaggio condito col sale, col 4.6, cioè sempre opportuno alle circostanze, è possibile, anzi, possibilissimo, colpire o danneggiare il prossimo con la nostra lingua, definita da Dio un veleno mortale, GM 3.8. E le occasioni non mancano, perché tutti, ma proprio tutti, non siamo un prodotto finito, perciò abbiamo tutti, ma proprio tutti, delle inclinazioni sbagliate. Abbiamo, sì, le nostre virtù, che a volte non si notano, ma abbiamo anche delle mancanze, che agli occhi degli altri si vedono più del sole in un giorno senza nuvole. Proprio per questa complessa situazione sociale, le nostre conversazioni molte volte hanno lo scopo di colpire chi ascolta. Se la conversazione è serena, neutra, amichevole, non ci accorgiamo di ciò che abbiamo nel cuore o nel nostro animo, ma come ci sentiamo attaccati dove non vogliamo, come sono messe in luce le nostre ombre, ecco che colpiamo dicendo: «Ma anche tu», mettendo in evidenza un'altrui mancanza, con lo scopo di voler umiliare. Questa esperienza, comune più dei fili di erba, dovrebbe essere evitata. E un modo per raggiungere questo scopo è di far vedere al prossimo i suoi possibili errori non nella conversazione dove si è acceso il desiderio di colpire, ma in altra sede, in un momento tranquillo, quando gli animi sono sereni. Come nel caso di Abigail, la saggia moglie dello stolto Nabal, la quale aspettò che al marito passasse la sbornia per parlargli. Così, con l'obiettivo di voler aiutare il prossimo, si parlerà di ciò che si ritiene negativo, presentando anche l'eventuale soluzione. È evidente che questo è possibile solo se non si vuole colpire, se si ha nell'animo il desiderio di voler aiutare il prossimo, se si desidera ardentemente che chi ti sta davanti migliori nel bene, altrimenti nella nostra bocca avremo sempre parole dure, inacidite, parole che colpiscono e feriscono. E quando si colpisce, non si ama. Fossimo convinti di questa verità, non useremmo l'arte di colpire, ma se, nonostante sappiamo questa verità, continuiamo a seguire questa strada, non so se la misericordia di Dio possa riposare sulla nostra vita, perché Dio perdona chi non è consapevole. LC 23.34, 1 Timo 1.13, ma non lascia il colpevole impunito. Es 34.7. Devo ammettere che tra gli episodi osservati nella vita, quelli nell'ambito della politica e della religione, mi lasciano veramente addolorato. Come è possibile che vi sia tanto antagonismo? È rimasto per me sempre un punto irrisolto, fino a quando non ho capito che il tutto era dovuto allo scopo di colpire. L'ho notato in particolar modo quando un politico molto in gamba porta avanti contestazioni molto apprezzabili verso gli oppositori del partito con un tono di saggezza, ma quando poi passa a militare dalla parte opposta trova contestazioni altrettanto apprezzabili e piene di saggezza, al punto da lasciarmi smarrito. Come può parlare contro lo schieramento politico che poco prima difendeva? Ormai è evidente. Il suo scopo è di colpire, di abbattere lo schieramento avversario, senza riguardo al fatto che si trovi nel giusto o nell'errore. L'importante è che lo schieramento opposto sia ferito, umiliato o mortificato. Questo è molto triste, perché anche se in politica vi è e vi deve essere l'opposizione, per un paese sarebbe salutare avere un partito in grado di vedere ed apprezzare nello schieramento opposto anche le cose giuste. Allora, lo scopo di far politica non sarebbe dire una certa verità per colpire, ma di esaminare ciò che è bene per la nazione. Tanto l'opposizione rimane opposizione anche se con umiltà riconosce ciò che è giusto nello schieramento opposto. Anzi, avrebbe un merito in grado di portarlo a ragione a vincere le successive elezioni. Stessa cosa vale anche nell'ambito religioso. Ogni espressione di fede è costretta a mantenere le proprie credenze. Ma una cosa è notare e far valere le proprie differenze. Altra cosa invece è voler ferire chi possiede una fede diversa, per umiliarlo e innalzare se stessi. E, pure triste, molto triste, anzi gravissimo, quando si è condiviso con zelo e amore la stessa fede, e poi, per ragioni di rancore ed amarezza, a causa di offese vere e presunte, si inizia ad avere un parlare teso ad abbattere, proteso a colpire. Chi è vittima di questo scopo non ha più una parola di incoraggiamento. EF 4.29 non ha più un parlare amichevole. GE 37.4 non possiede più quella sana risata auspicabile nella convivenza fraterna, come non esistono più quelle serate in buona compagnia o quegli inviti a pranzo che saldano il rapporto fraterno più degli incontri religiosi in comune. GV 12.12 come sta scritto, la lingua bugiarda odia quelli che ha ferito. PR 26-28. Perciò chi colpisce, o chi ferisce, non può attribuire questo all'amore. È vero che fedeli sono le ferite di un amico, Proverbi 27-6, ma sono ferite come quelle di Dio, Giobbe 5.18, tese a guarire, a unire, a costruire, a edificare, ma mai, e poi mai, a colpire. Vi è un modo per evitare questa strategia così devastante di colpire, e mai, un modo vecchio quanto il mondo, ma anche un modo nuovo, perché messo in pratica da Gesù, amare, non l'amore sentimentale o erotico, dei quali è impregnata la società, neppure quell'amabilità trascendentale, tipica di certi credenti, ma quell'amore o comportamento che procede da Dio. Non ci vuole molto per rendersi conto che quest'amore manca ed è sempre mancato, perché anche al tempo di Gesù, cioè 2000 anni fa, I popoli gemevano sotto il pesante giogo dei romani, gli israeliti odiavano i romani. E i romani disprezzavano gli israeliti, i giudei e i samaritani non andavano d'accordo. Gli stessi ebrei disprezzavano certe regioni, al punto da dire: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? I capi religiosi erano divisi perché sadducei e farisei avevano dottrine diverse e litigavano. Questi stessi capi maledivano il popolo perché era ignorante. Gli stessi discepoli di Cristo erano litigiosi e pieni di rivalità. Com'è possibile non colpire? Come si può non ferire? Chi per noi compie il male e l'ingiustizia? Occorre fare la cosa più difficile, forse in assoluto: conoscere se stessi. Non si tratta di un esame psicologico freudiano o di un'azione moralistica, piuttosto chiedere SL 139.23 e permettere a Dio di conoscere chi veramente siamo tramite la sua parola. Amos 4.13 SL 19.12. Una volta convi Nuovo Testamento primo da Dio di non essere migliori degli altri, tolta la trave nel nostro occhio, che è rappresentata dal giudizio e dal pregiudizio negativo, MT 7.15, quando vedo nel prossimo mancanze, imperfezioni, complessi, debolezze, amico o nemico che sia, allora ho il desiderio di capirlo e non di colpirlo, ho il desiderio di aiutarlo e non di odiarlo, ho l'obiettivo di rialzarlo con spirito di mansuetudine e non di morderlo o di divorarlo. Gal 6.1. Già questa predisposizione trionfa sul male, perché come è vero che è già un atto di sapienza cercare sapienza, così la predisposizione di volere il vero bene del prossimo quanto il mio è già un impedimento a nutrire ogni giudizio distruttivo. L'esempio magistrale di chi vuol colpire lo abbiamo al processo di Gesù, quando due testimoni riferirono, anche se non perfettamente, ciò che Gesù aveva detto anni prima in merito al Tempio. MR 14.5758, GV 2.1921. Il triste e insano scopo, del resto non riuscito, era quello di colpirlo, di condannarlo, per dimostrarne la colpevolezza. Questo è il terrificante obiettivo di chi vuole colpire. Che Dio abbia misericordia se in noi abita tale obiettivo, perché siamo e saremo giudicati col giudizio con il quale giudichiamo, MT 7.12, il che vuol dire che saremo colpiti come noi colpiamo. Come disse qualcuno, abbiamo incontrato il nemico, e siamo noi. Un fratello in fede, visitato da Dio, confessò ad un altro fratello che lo voleva colpire quando parlava del suo modo di agire ingiusto. Il fratello ne fu contento, e subito dopo sparse la voce della sua giustizia mediante la confessione di peccato del fratello. Un terribile errore, che mostra la nostra presunta santità e la colpa del prossimo. Un errore che si paga caro davanti a Dio. Marzo 2011. Ellero.